7 spaccate all'orologio di Rock FM. Venerdì 23 novembre 2007. Chi vi parla è l'Ariele. Ciao, ciao. Puntata 136 della colazione che serviamo. Sì, sei il primo. Rispondo a quello che ha scritto l'SMS chiedendo solo il primo, sì. Abbiamo un lampione crepuscolare che veglia sopra le nostre teste, è ancora acceso. E visto l'andazzo della giornata, rischia che anche quest'oggi resterà acceso per un bel po'. Beh, meglio, ci farà compagnia. Piovigina qui a Milano. Da voi? Ciao Spadino, buongiorno anche a te. Sigla! E che sigla, ragazzi, da sciacquarsi la bocca. C'è anche Mister Trombetta con noi, state in una botte di ferro. Pane, burro e rock and roll. Oh yeah! La tua colazione rock. Vi tiriamo per le orecchie fino alle 9. Pane, burro e rock and roll. La colazione che dà assuefazione. L'unica, l'inimitabile. Yeah! Se cerchi una... Oggi c'ho yeah, sì. Che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Perché conviene, perché fa bene. Trucu tricu, tricu tra. Eccoci qui soli soletti negli studi di Rock. Perché dobbiamo arrivare sempre per primi io e te, Spadino? Eh? Che siamo i figli della serva? Può essere, ci sta. A poco arriverà la nostra redazione, ma soprattutto l'attesa spasmodica per l'Eurostar che arriva in stazione centrale alle 7 e qualche minuto e che ci trasporta dalla Bologna che conta Roberto Fricantoni. Che orgoglio averlo tutte le mattine qua con noi, è un vero piacere, anche perché lo studio si riempie sempre di bottiglie di chinotto. Sono passato da un grande amante della birra al chinotto, che ci volete fare? Colpa di Freak, molta colpa di Freak. Va bene, iniziamo con la buona musica e poi vi racconto un po' cosa potrebbe accadere in questa puntata 136, non perdetevela. Time to bring it down. Little Susie di Tesla per iniziare il viaggio musicale di stamane sulle frequenze di Rock FM. Guardate che siete scemi, eh? Prima ho letto in diretta un amico che inviava l'SMS con su scritto primo, a seguire ne è arrivato un altro, sono il secondo. In realtà avete azzeccato tutti e due, complimenti. Da adesso la situazione inizia a farsi complicata, nel senso che ne sono arrivati altri. È impossibile che becchiate il numero che siete, però segnalo così. C'è feeling tra di noi, come si diceva qualche tempo fa in una bella canzone. Vi ricordo il numero di SMS, se anche voi volete tentare di azzeccare il numero progressivo col quale apparirete sul mio computer di destra, tentate pure. Io vi ricordo il 335 100 7777. Se siete nella vostra autovettura e se siete conciati male come me, potreste scriverlo sulla polvere del cruscotto. Io sono solito a puntare delle cose sulla polvere del mio cruscotto, questo per farvi capire che la mia macchina non è che stia messa proprio bene bene bene. Che ci volete fare? Sono uno staccanovista, lavoro troppo e non ho mai tempo di occuparmi della mia autovettura, ma lo farò, dopo questa confessione certamente quest'oggi lo farò. Vi ho ricordato il numero di SMS, perché non ricordarvi anche la nostra casella di posta elettronica, capace, capiente, casella di posta elettronica ariel@radiorockfm.com. Io vorrei salutare Fabrizio, non so se è all'ascolto già a queste prime ore della giornata, mi manda una bella mail di complimenti, apprezzo molto questa parte dei complimenti. Il programma è fresco, irriverente, controcorrente, in una parola rock and roll. Oh, che bello! Però c'è lassù, si complimenta anche per la rubrica dedicata al mouth player. Alla faccia, Fabrizio. Ovvero rock con la bocca. Sì. Mentre trova oscena la rubrica con il kazoo, utilizzato per suonare i Led Zeppelin. Io vi chiedo ancora scusa, ragazzi, ma non possiamo porre freno alla nostra creatività. Questo è l'unico grosso neo di Pane, Burro e Rock and Roll. Quindi chiedo ancora scusa. Ieri è andata in onda una versione di Black Dog dei Led Zeppelin suonata col kazoo e il nostro amico Fabrizio, come si chiamava? Fammelo rivedere. Sì, Fabrizio, ci è rimasto male. Non rimanerci male. E voi della prima ora di diretta, tranquilli, ve la faremo ascoltare anche a voi. Non temete, non temete. Sir Elton John e il suo Crocodile Rock. Buono per il risveglio, no? venerdì, amici ed amiche là fuori che ci ascoltate. Un saluto da Pane, Burro, Rock and Roll. La voce che sentite è quella di Roberto, detto Freak Antoni, che approfitta dell'assenza dell'Ariel per iniziare l'almanacco. Bravo maestro! Ah, era qui, così mi piace. C'è paura! No, intrattenevo in attesa della sua venuta. Grazie, eccomi qui e iniziamo con l'almanacco di venerdì 23 novembre. Viva novembre, viva venerdì! Tenete duro, sta poco, finendo una dura settimana di lavoro. Trasferiamoci con la nostra macchina del tempo al 1889. Senta che emozione! Il primo jukebox entra in funzione a San Francisco, al Palais Royal. Cos'è? Questo cos'è, scusi? Il Palais Royal o il jukebox? È la musica del primo jukebox. Era proprio quella. Era il 1889. Incredibile, prima non erano neanche il 900. Esatto, pazzesco. Allora chissà che musica avranno, forse il ragtime. Va bene, proseguiamo. 1936 nasceva, o meglio usciva, il primo numero della rivista Life. Life, una rivista importantissima, una rivista di attualità, una rivista che ha raccolto le fotografie dei maggiori professionisti in questo campo del mondo. Mi permetta di ringraziarla per la prossima notizia. Lei e la redazione che l'ha rintracciata, era il 1956. Fricantoni aveva 2 anni. Quando l'operaio Louis Ballant dà un pugno a Elvis Presley in un hotel a Toledo. Ma perché lo fa? Sosteneva che l'amore della moglie per Elvis aveva causato la fine del suo matrimonio. Ma non è finita qui. L'operaio viene multato con un'ammenda di $20, pochi tra l'altro, ma finirà in galera perché non aveva i $20, non poteva pagarla. Quindi non pagando la multa si ritrovò in galera. Cornuto e mazziato. Cornuto e mazziato. Sa quale sarebbe stato un bel gesto da parte di Elvis? Tipo? Pagare la cauzione. Sarebbe stato un signore. Sarebbe stato, ma mi veramente sa che Elvis con un pugno in faccia c'aveva quei 5 minuti che non gli passavano. Forse sì. Così come sa, posso parlare un attimo di Berlusconi? Ma se vuole, no, guarda, io se volevo se la dire sente, solo dica. Che io avrei apprezzato da Berlusconi, sì, questo gesto. Se lui in ambito al riguardo del debito pubblico italiano avesse, sì, detto ci penso io, lo copro io, io sarei diventato berlusconiano, amici. Veramente. Se lui avesse detto stacco l'assegno, quanto mi costa? Quant'è questo buco del governo italiano? Silvio, fallo e correremo da te. Esatto, Silvio, fallo e diventeremo tuoi fan. Tra l'altro, Silvio, nel piccolo, se vuoi farlo anche solo per i debitini nostri, sì, Ariel, Fricantoni, Rock la FM, redazione, insomma. Noi un pensierino comunque ce lo facciamo, eh? Sì, esatto. Grazie. Insomma, ne possiamo parlare, grazie, discutere, mille. Grazie, Grazie, buon compleanno Silvio. Io non so quale sia il giorno, ma buon compleanno. E anche buon non compleanno. È già che ci siamo, sì. Esatto. E me, che c'è? We'll be right back. ero in assolo di batteria. I Queen. One Vision, tutta, l'ho fatta sentire Marco da Milano, che mi scrive: guarda, quando interrompi le canzoni male è come quando arriva il controllore a dirti che non hai il biglietto. È molto bella come metafora. Tra l'altro avresti potuto farne di peggio, invece questa è molto carina, grazie caro Marco. Buongiorno ragazzi, è venerdì, affrontiamo la testa alta, tanto c'è il rock and roll dalla nostra parte. Oh, sto messo male io, è ovvio, come voi tra l'altro. Da cosa me ne accorgo? Ve lo dico subito. Ho iniziato dicendo che c'era un amico che inviava via SMS scrivendo sono il primo. Poi è arrivato un altro, sono il secondo. Poi siete andati avanti ovviamente. Capito? Perché basta darvi un ditino, vi prendete il braccio. Per intuire quanto sto messo male, innanzitutto mi complimento con Arianna, che scriveva fino ad adesso sono l'ultima. In quel momento è stato vero, Arianna. Io ho dei filosofi all'ascolto, si capisce. Ma il fatto di capire che sto messo malissimo riguarda questo. Un amico che propone, dopo i Beatles in italiano, i Led Zeppelin col kazoo, perché non i Deep Purple con lo scacciapensieri? Tranquillo amico, stai lì tranquillo che ne combineremo anche i Deep Purple. Ma finisce il messaggio con scritto sono il 32esimo? E voi direte, vabbè, finita lì. Sì, ma l'Ariel è talmente scemo che si mette a contarli, capito? Per vedere se è il 32esimo. No, non lo eri comunque. Hai sbagliato, anche di un bel po', tra l'altro. Ah, è dura gestirvi, ragazzi, ma è tanto bello trovarvi al nostro 3351007777, perché le nostre menti bacate non bastano, servono anche le vostre. Abbiamo un'amica che si arrabbia perché si era presa il compito di fare il motto del il detto del giorno. E l'altro giorno devo aver letto la poesia di un altro, non il suo detto, quindi si offende. No, non offendetevi, ragazzi, Lei però è contenta di aver ispirato qualcun altro a fare una cosa simile. Brava, prendila così, che è molto meglio. Però abbiamo il motto di oggi. Ecco il nostro errore. Vediamo la morte davanti a noi e invece gran parte di essa è già alle nostre spalle. Appartiene alla morte, la nostra vita passata. Ociove. Che roba. Francesco da Pisa, certo che se stessi zitto anche durante la canzone che mandi per intero. Puntini, puntini. Ragazzi, mi sto allenando per diventare musicista rock con la bocca. È mica colpa mia se sono così un professionista attaccato al suo lavoro, eh? Voi potete cantare solo voi, anche io lo voglio fare. E poi non è colpa mia, è colpa di quel cretino di Spadino che apre il microfono. Salve, Giovanna. Ciao. E mio nome è Roy. Mio Ariel, ciao. Sei del Texas? No. No, di Gallarate. Anch'io, guarda, anch'io, di Gallarate, provincia di Varese. Sì, il paese dell'Arnetta e degli amaretti di Gallarate. Mai assaggiati? You're living in your own body.